Buonasera, siete in onda con una nuova puntata di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Sono da poco passate le 19, siamo in collegamento con Davide. Io sono Michele, buonasera a tutte e a tutti. Anche questa sera, Davide, non so se ci sei, ci senti? Perfetto. Buonasera a tutte e tutti, salve a tutti, ancora qualche settimana e poi la faremo insieme fisicamente la trasmissione. Ottimo Davide. Comunque io volevo brevemente fare un sommario della puntata che ci apprestiamo, diciamo, a trasmettere. E sicuramente, Davide, dobbiamo continuare a dare aggiornamenti rispetto a quello che sta succedendo a Gaza, soprattutto alla luce del fatto che, come scrivevamo tra l'altro sui nostri canali social, mentre a Gaza le macerie sono ancora fumanti, proprio oggi il segretario di Stato americano incontrerà Benjamin Netanyahu. E nel frattempo, nonostante il cessate il fuoco, la situazione nell'enclave palestinese è sempre più drammatica a causa degli ingenti danni alle abitazioni e alle infrastrutture, la scarsità di energia elettrica e soprattutto anche alla scarsità di acqua potabile. Per di più, insomma, parleremo anche delle schermaglie tra l'Unione Europea e la Bielorussia rispetto alla vicenda che si è consumata qualche giorno fa nei cieli Bielorussia, appunto, dove un aereo di linea della Ryanair è stato intercettato da un caccia di Minsk che l'ha dirottato, insomma, a terra proprio per arrestare un giornalista di estrema destra che si trovava su quel volo. Una notizia abbastanza tragica, insomma, che dobbiamo dare. All'alba di domenica scorsa, una militante del movimento Black Lives Matter è stata sparata alla testa da una macchina in corsa e si trova in gravi condizioni. Quindi, Davide, io farei una brevissima pausa musicale e ascoltando anche il Conservatorio di Salerno che canta un Adicum e torniamo in diretta in voce tra poco. Penso che ripartendo da quella che è la situazione di Gaza, Michele, io direi innanzitutto di partire dal fatto che ieri per la prima volta è stato permesso l'accesso dei giornalisti nella striscia, abbiamo potuto vedere ulteriori immagini di distruzione e di morte dalla striscia di Gaza, con l'entrata dei giornalisti anche del Manifesto, quale Michele Giorgio, che salutiamo con affetto, è entrata anche la compagna Mary Carbelli, presidente di ACS Italia e che è coordinatrice di importanti progetti di solidarietà nella striscia di Gaza e che vedono appunto la solidarietà italiana al primo posto. Volevo sottolineare un dato di fatto, cioè che questo cessate il fuoco, cioè partendo dal fatto che questo cessate il fuoco sembra reggere, è ovvio che bisogna anche trarre un bilancio da quella che è stata, che sono stati questi, quelli che hanno di ciò che hanno rappresentato questi giorni e questa operazione militare. Da un lato Hamas ne esce sicuramente rafforzata, oltre a sottolineare al nemico il fatto che è in grado di colpire su più punti e di infliggere pesanti danni alle sue infrastrutture. Pensiamo ai vari attacchi missilistici che si sono susseguiti, i lanci di razzi che dalla striscia hanno colpito appunto importanti infrastrutture israeliane, oltre ai 10 morti e alla decina di morti che hanno provocato. Dall'altra è evidente che quello che abbiamo assistito, al di là ovviamente della sottintesa distruzione da parte sionista che ha portato ai ingenti danneggiamenti della striscia, abbiamo assistito anche alla passività, possiamo dire all'anonimato, anzi qualcuno, io non credo di avervi sentiti, da parte dell'autorità nazionale palestinese che è rimasta a guardare quello che accadeva, sottolineando la sua subalternità al conflitto in corso. Piuttosto che rilanciare il problema, la questione delle elezioni, che è stata una dei tanti problemi che si sono posti in questi giorni e che forse ha determinato anche questo slancio da parte di Hamas, che nessuno si aspettava una risposta del genere, anche l'ultimatum che ha dato l'11 maggio, nessuno si aspettava che poi dopo quest'ultimatum sarebbero scattati i missili, partiti missili dalla striscia. Diciamo che in questo modo Hamas riconquista quel consenso che aveva perduto, perché si dovevano tenere appunto le elezioni e i sondaggi davano ovviamente come vincente per la presidenza dell'autorità nazionale Barghouti, il leader dei Tanzim, che deve scontare 3 castoli nelle carceri israeliane, ma che è una figura rispettata e riconosciuta da tutto il popolo palestinese. E i sondaggi davano sconfitti ovviamente l'autorità, la corrotta ANP, ma vedevano anche una perdita di consensi di Hamas proprio a Gaza, in quanto la gente ormai riteneva insopportabile il controllo di Hamas sulla striscia. Ho potuto verificarlo 2 anni fa e comunque il fatto che Hamas controlli la striscia di Gaza non significa che i 2 milioni di abitanti della striscia siano tutti islamisti, anzi mal sopportano alcune vessazioni, alcune visioni della società secondo la prospettiva islamista di Hamas. Però nel momento in cui Hamas ha deciso di rispondere a tutto quello che stava accadendo nei territori occupati, in particolare a Gerusalemme, alla pulizia etnica delle famiglie dal quartiere di Gerusalemme Est Sheikh Jarrah, ai soprusi sulla spianata delle moschee, in quel frangente tutto il popolo Gazawi, o meglio gran parte di esso, si è assolidarizzato con la resistenza messa in campo ovviamente non solo da Hamas ma tutte le brigate della striscia. Questo è anche importante sottolinearlo. E soprattutto il dato che emerge dall'altro rafforzarsi da Hamas, ma dall'altro, o meglio, in quanto forza che resiste all'occupante, in questo crea la sua legittimità Hamas, mentre l'ANP perde consensi proprio per il suo collaborare per la sicurezza per Israele. E su questo poi dopo apro una piccola parentesi. Ma il dato, secondo me, ancora più significativo di questi giorni, è appunto il ritrovare un'unità del popolo palestinese, un'unità che forse qualcuno aveva messo in discussione. Pensava Israele che separando i palestinesi dai territori del 48 da quelli della Cisgiordania, applicando una diversificazione di misure che comunque implicano che i palestinesi del 48 siano dei cittadini di serie C, come ho sentito dire in piazza nei giorni scorsi, nemmeno di serie B, questa rinnovata unità ha rappresentato un elemento di forte novità in campo, proprio a significare che il fatto che qualsiasi sopruso ci può, Israele può provare in qualsiasi modo a piegare i palestinesi, ma non cancelleranno mai la loro dignità e la loro identità di popolo. E questo secondo me è stato un dato fondamentale, un dato di una forte importanza, così come è stato importante appunto che si è manifestato nella sua, ancor più nella sua potenza, non solo con le manifestazioni che ci sono state nei territori del 48, ma soprattutto con lo sciopero generale che ha visto una chiusura totale in Cisgiordania, a Gerusalemme Est e anche nelle città arabe, appunto dei territori cosiddetti israeliani. E questo è stato un elemento importante, forse inaspettato anche dalla parte israeliana, anzi sicuramente inaspettato dalla parte israeliana, tanto che quando sono successe le manifestazioni a Lod si è dovuto chiedere l'intervento dell'esercito perché la polizia aveva perso il controllo della città. E abbiamo assistito anche a un ricompattarsi di quei comitati popolari tra le varie fazioni uniti a combattere uniti contro l'occupante. È stato, secondo me, un dato importante da rimarcare, oltre alle manifestazioni dei rifugiati palestinesi fuori dalla Palestina, dal Libano e dalla Giordania che sono accorsi ai confini. Questo è stato un dato importante. È un dato, secondo me, a cui la solidarietà internazionalista dovrebbe far perno, cioè favorire piuttosto l'azione dei comitati popolari, piuttosto che, come dicevamo in prima della trasmissione, che legittimare persone che non godono, che non rappresentano nessuno in patria, ma sembra che quando stanno all'estero o qui in Italia rappresentino la Palestina. E a me sembra un ragionamento un tantino paradossale che a volte comunque ci porta ad inconsapevolmente, in buona fede, parlo da parte di molti, ad tramutare la nostra solidarietà in un inconsapevole appoggio a strutture che invece a strutture e ad istituzioni che non rappresentano più i palestinesi, come è evidente, e invece favoriscono il permanere di uno stato di apartheid. Entro più nello specifico di questa mia affermazione, nel senso che nei giorni scorsi, dopo la tregua, in questi giorni, nei territori del 48, quindi in Israele, sono susseguite delle campagne di arresti di massa. Sono stati arrestati di arresti di massa nei confronti di tutti quei palestinesi che hanno manifestato, i licenziamenti a coloro ai quali avevano partecipato allo sciopero. E negli stessi giorni, in Cisgiordania c'era invece una ANP che procedeva nello stesso senso. Infatti, la mattina mi sembra proprio di ieri o l'altro ieri, non voglio sbagliarmi, iniziava infatti ad intensificarsi questa campagna di arresti e le forze di sicurezza dell'autorità nazionale hanno sferrato in contemporanea con Israele alcuni importanti arresti, tra cui la foto del tra cui lo sto vedendo in foto, scusatemi, il compagno Mustafa Kawaya, che era già un prigioniero politico nelle carceri sioniste, che è stato arrestato dall'autorità nazionale Anlin ieri mattina. Ora, questo proprio in un momento, cioè se ci rendiamo conto della gravità, forse non ci si rende conto della gravità della cosa, ma è evidente, a meno che uno poi si voglia coprire gli occhi, che ciò no, di certo non è, questi arresti non sono volti ad, a sostenere la causa palestinese, ma bensì a sostenere l'occupante. Al di là di ciò, facevamo anche un altro ragionamento su cui poi sarebbe buono che i miei compagni si interrogassero, e che questa, il non voler prendere posizione non fa altro, perché poi dopo ci si lamenta dell'islamismo di Hamas, del rafforzarsi di Hamas, ma noi ovviamente, chi ci conosce sa da che parte stiamo, e non di certo la nostra visione politica è completa dall'opposto di Hamas, da qualsiasi visione religiosa, sia essa l'Islam, il cattolicesimo, l'ebraismo, qualsiasi altra religione, ma ovviamente difendiamo il diritto di un qualsiasi popolo a difendersi in qualsiasi mezzo, e quindi non ci sentirete mai dire che da Gaza non hanno diritto a rispondere all'occupante, perché la legittima difesa dovrebbe essere garantita solo per i palestinesi in quanto Israele è uno stato occupante. Però dicevo che il non voler mettere in discussione determinate politiche fallite, e parlo in maniera ancora più chiara, come quella dei due popoli, due stati, non fa altro che esacerbare le all'interno del campo palestinese e favorire il rafforzarsi della componente islamista, dato che allo stato attuale, senza elezioni politiche e senza il rinnovarsi dell'autorità nazionale, soprattutto senza una persona, una figura di riferimento che può essere solo Marwan Barghouti, e lo diciamo apertamente, non qualsiasi prospettiva va qualsiasi sforzo generoso da parte dei compagni molto spesso si tramuta in una legittimità a forze che, ripeto, a casa loro non sono legittimate, non capisco perché a casa nostra dobbiamo legittimarle. La prospettiva purtroppo dei due popoli e dei due stati, quella che ha portato a fondare l'autorità nazionale, che ha preso il sopravvento sull'ORP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che era l'unico referente a livello internazionale, così come riconosciuto dalle Nazioni Unite, ovviamente l'ha posto in un secondo piano, in un piano di subalternità, in quanto a decidere è l'autorità nazionale per decreto, e questa cosa non è che va avanti da ieri o dall'altro ieri, ma va avanti da più di 15 anni. Quindi anche gli stessi aiuti da parte internazionale che saranno stanziati per la ricostruzione della striscia di Gaza, come si sente dire, sono subordinati al fatto che questi soldi siano controllati dall'autorità nazionale, perché altrimenti Hamas ne farebbe un altro uso. Beh, sicuramente entrambe le fazioni dei soldi ne fanno un uso personale, però è evidente la volontà di non voler riconoscere l'esistenza di una forza politica reale. Dovremmo i palestinesi dovrebbero combattere per il rinnovamento degli organi dell'ORP, che inglobi la rappresentanza di tutte le fazioni, perché non si può non si può trovare una prospettiva politica, realizzare un progetto politico tenendo fuori una parte che comunque, volente che ci piaccia o non ci piaccia, a noi non piace, ma è così, è un dato di fatto, rappresenta una parte dei palestinesi. E se è vero, ci sono tutta una serie di analisi, ma cosa, però è importante specificarla. Il rafforzamento di Hamas è sicuramente, soprattutto a partire verso la fine degli anni 80, inizio anni 90, soprattutto favorito dallo stesso Stato di Israele, sebbene poi abbia proceduto agli omicidi mirati dei suoi leader fondamentali, e però allo stesso tempo quello che ha fatto l'autorità nazionale non ha fatto altro che rafforzarla, perché Hamas nella sua visione islamica è apparsa come l'unica forza che resiste all'occupante, sebbene lo faccia nei suoi interessi e si copra nella propaganda del la liberazione della Palestina, Dall'altra, l'ANP e Fatah hanno mostrato, si sono mostrato una forza corrotta che non è in grado di difendere il proprio popolo, ed è per questo che in Cisgiordania abbiamo assistito durante i bombardamenti alla striscia di Gaza, anche mi sembra vicino Nablus, c'è stata la presa, sono state incendiate tutte le macchine del commissariato della polizia dell'autorità nazionale, in quanto si sono rivoltati i palestinesi dei comitati popolari proprio perché non dicevano: voi non ci difendete, allora che gioco fate? Quindi il discorso, anche non per specificare dinamiche interne italiane o nazionali, è evidente che poi si arrivano chiamate da persone che si coprono dietro determinate diciture. È difficile poi che si depotenzia una potenza che invece si è vista in piazza, perché anche le piazze italiane, Salerno, Milano, Napoli, parlando con i compagni, sono state caratterizzate da questa presenza di questa componente giovanile, la quale non si sente rappresentata da alcuni personaggi di lunga data. Alcune logiche non fanno altro che mettere a tacere questa gioventù, cioè, o meglio, volerla strumentalizzare per portare avanti determinate politiche che poi sono fallimentari. C'è tanta buona volontà da parte di molti compagni, io non metto in dubbio la buona fede di alcuni, di altri sì, ma la buona fede di tanti non la mettiamo in dubbio, però il problema è che se non si mettono in discussione determinate situazioni, alla fine non si fa altro che tutti i nostri sforzi andranno a rafforzare, non andranno a rafforzare la resistenza per la liberazione della Palestina, bensì a soluzioni che si chiudono in un vicolo cieco e che porteranno ulteriori esplosioni di rabbia che invece potrebbero essere indirizzate verso obiettivi mirati. E parlo di obiettivi politici, perché quando anche lo stesso D'Alema, facendo riferimento ad Human Rights Watch, al rapporto di Human Rights Watch sull'apartheid, parla che esiste una sola entità che di fatto dal fiume Giordano al mare controlla la vita dei palestinesi applicando l'apartheid, e riconosce il fatto che noi occidentali stiamo pagando delle istituzioni solo per elargire degli stipendi, ma senza una soluzione reale. Ci vogliamo rendere conto che ormai continuare a parlare di due popoli, due stati, non serve a nulla? Vogliamo dirlo una volta e per sempre, così come è stato ribadito anche in piazza a Salerno, che l'unica soluzione che dà giustizia a un popolo, che è alla base della convivenza, è quella soluzione che garantisce i diritti del palestinese, il diritto al ritorno, la libertà di movimento, quelle libertà fondamentali che a noi ci sembrano assodate, e quindi la prospettiva di uno Stato unico in cui palestinesi ed ebrei israeliani possano convivere in pace e serenità con pari diritti e pari dignità, e sotto una bandiera che non sia quella israeliana. Wrapped up, packaged and commodified in this poisonous equation. I wonder what am I? Tax dodging tabloids, profit from these horrid lies. Peddle patriotism, but economically colonized. Sycophants gripping flags, tell you that they're on your side. Sell off your services abroad. Who do they prioritize? Robin Hood in reverse. These robberies aren't secrets. Bonuses for bankers and backhanders for arms dealers. Can't cage the alternative that now exists with the skill of an alchemist. Turn pain to empowerment. Inspired to be alive in this powerful moment. No more of all these cowards sell us out to the donors. We rose like a giant awoken out of this coma. Confront the culture of power with the power of culture. We sing. Freedom. Republic, service, diet, death, the World Bank and IMF visit. Freedom. The kleptocracy orchestrating, subjugate the corporate state that isn't. Freedom. Teresa's a terrorist, we could be standing at the precipice of freedom. History favors the trailblazers. The taste for change is contagious. It's not strange these faces takers are afraid of raising wages. When the same mangy papers say that we should hate our neighbors, then when the rage cascades, these sadists claim that their blame is what is clear. Some don't even pay taxes on their profits here. Vote against the interests of Murdoch and Rodemir. Not conspiracy theory, conspiracy actuality. Until now, politics merely a practicality. They deify celebrity. What happens when no celebrities turn on you? Say plunder's not necessity. I don't condemn the deified, but mourn those as brilliant as them who died, potential unrealized atomization had us distant and deaf, and now we're interconnected, independent but interdependent. We rose like a giant awoken out of a coma, confront the culture with power, with the power of culture we sing. Freedom, your public service day, death, the World Bank and IMF is it. Freedom, the kleptocracy orchestrating, subjugate the corporate state, that is it. Standing at the precipice of freedom. We sing freedom. The public service day of death, the World Bank and IMF is it. Freedom. The kleptocracy orchestrating, subjugate the corporate state, that is it. Bene, dopo questa pausa, Davide, dopo la tua lunga analisi molto interessante rispetto a quelli che sono i fatti in campo, soprattutto quello che sta avvenendo in queste ore, io volevo collegarmi con quello che hai detto finora per parlare appunto della notizia che proprio oggi il segretario di Stato Blinken vedrà il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen a Ramallah, e nei prossimi giorni Re Hussein di Giordania, il presidente egiziano al-Sisi. Nel frattempo oggi ha incontrato a Gerusalemme Netanyahu. Come ci anticipavi giustamente tu, uno degli argomenti sul tavolo della discussione è stato appunto il fatto che gli aiuti internazionali saranno subordinati comunque a una gestione dell'ANP, quindi in nessun modo Hamas dovrà beneficiare di quelli che sono gli aiuti internazionali. Questo giusto per collegarmi al fatto che appunto quello che dicevi tu la puntata scorsa, cioè che a noi in Occidente in realtà la democrazia non piace, nel senso che quando poi i palestinesi eleggono i loro rappresentanti in elezioni libere, se poi viene eletto Hamas, per Israele non è un interlocutore attendibile, così come per il resto della comunità internazionale. Fa ancora più paura la possibilità che possa essere eletto Barghouti, che rappresenta una prospettiva laica e che rappresenterebbe una svolta, a mio modesto parere, rispetto ad un esito positivo e una prospettiva politica unitaria per la lotta per la liberazione della Palestina. Non solo, Davide, però in ogni caso da quello che potrebbe emergere insomma da questi incontri che appunto il segretario di Stato americano farà nella regione per conto del presidente neoeletto Biden, in ogni caso in qualche modo potrebbero anche cambiare quelli che sono gli attuali progetti della Casa Bianca, i progetti che erano di Obama e anche del suo successore, diciamo il Donald Trump. All'epoca si parlava di due popoli, della soluzione di due popoli per due stati. Tu prima ci hai spiegato ampiamente per quale motivo questa soluzione non è più percorribile, probabilmente anzi non lo è mai stata, perché era impossibile creare uno stato di Palestina lì dove c'erano le colonie impiantate appunto da Israele. E infatti a breve manderemo un estratto di una conferenza del giornalista israeliano Gideon Levy, che parla proprio di questo, parla proprio della soluzione dei due popoli e dei due stati. E insomma, magari l'approccio della Casa Bianca potrebbe cambiare. Certamente quello che è lo scenario che stiamo vedendo è poco edificante con quello che è successo a Gaza. Infatti, come documentava anche Michele Giorgio, che si trova proprio lì, in uno dei bombardamenti è stato ucciso anche il responsabile della gestione dell'epidemia di Covid a Gaza, il primario del principale principale ospedale di Gaza, che nulla aveva a che fare con le operazioni militari. Per Israele quello è una vittima civile collaterale. Però certo, se si va a bombardare in uno dei posti più densamente popolati al mondo, dove tra l'altro l'età media della popolazione si aggira intorno ai 20 anni, è facile trovarsi a bombardare minori e, come è successo in questo caso, anche persone che non hanno niente a che vedere con le attività militari, quindi all'eventuale difesa di Israele, eccetera, ma semplicemente si occupano di altre questioni. Ricordiamo tra l'altro che Israele ha impedito l'ingresso dei vaccini donati dalla Russia e da altri paesi a Gaza, quindi la popolazione gazawi praticamente ha raggiunto l'immunità di gregge attraverso il contagio, fondamentalmente. E fortunatamente che l'età media è molto bassa, però perché altrimenti poteva succedere veramente un'ecatombe. Però questo per far capire come il sionismo non abbia assolutamente a cuore quelle che sono le sorti dei palestinesi, che anzi, come ampiamente documentato, sono oggetto di pulizia etnica, di apartheid, e per questo motivo anche le organizzazioni internazionali nel corso degli anni, insomma, hanno ampiamente denunciato e documentato tutto questo. In ogni caso, io vorrei farvi ascoltare quello che è appunto questo estratto da questa conferenza di Gideon Levy, che è un noto giornalista israeliano che è contro l'occupazione, è contro l'ipotesi dei due popoli e dei due stati. Infatti, diciamo, in Israele, sebbene ne sia stato un sostenitore, sì, infatti lui nell'intervista che stiamo per mandare lo dice anche. Eppure Gideon Levy, che scrive per Haaretz, che è un giornale, diciamo, progressista israeliano, appunto esprime così quelle che sono le sue posizioni. A voi il giudizio, l'intervista in inglese, magari al termine faremo un breve riassunto, però già abbiamo inquadrato quelle che sono le tematiche. The two-state solution left the station long time ago. You, Wada, you say that he died, it was never born. Let's be honest about it. It was never born. I believed in it for years. I was an advocate of the two-state solution when very few Israelis were advocating two-state solution. I thought it's a courageous idea, a wonderful idea. Two peoples share one land. Let's share the land between the two peoples. What is more just than this? The only thing I didn't know is that nobody in Israel means to go for it. Ever, ever, ever, never, never, ever. There was not a single Israeli prime minister, not a single Israeli government who had an intention to go for the two-state solution. There was never an Israeli prime minister, Israeli government who had the slightest intention to put an end to the occupation. They had all kinds of tricks to gain time, to strengthen the occupation, to strengthen the settlements. The peak of it was obviously the Oslo Accords, which I supported. I remember, again, maybe I'm too emotional, I remember, I really thought, that's it. We reached a stage in which the way for peace and justice is open. But it was a trap. I know it only now, I didn't know it then. Only in order to gain time. Only in order to strengthen the occupation. How do I know? Because Oslo, even this courageous process which brought Nobel Peace Prize to some people, even this process didn't mention the core issue then, and this is the settlements. And when you don't touch the settlements, you have no intention to put an end to the occupation. And if you don't agree, first of all, to freeze this whole criminal project and then to evacuate the settlements, there are no two states. You know, all those conditions. Listen to the language of those who support two-state solution or claim that they are supporting the two-state solution. Palestine must be demilitarized. Sorry, why should Palestine be demilitarized? Don't they have the right of self-defense? Aren't their life in danger much more than we Israelis? What other country in the world is demilitarized? Why would they be demilitarized? Why can Israel possess any possible weapon in the world and Palestine has no right to have any kind of weapon? What kind of justice is this? Based on what? On being the chosen people? On being the victims of the Holocaust? On what? And what does this has to do with the Palestinians' rights? And that's only one example. The two-state solution was never born. Israel went for it after many years of opposing it because they saw that this can lead to decades and decades of occupation without doing anything, only strengthening the settlements. We have no partner. You know, Arafat was too strong, Abbas is too weak, Hamas is too fundamentalistic, we don't have a partner. Israel is a partner, obviously, for anything, but there is no Palestinian partner. How unfortunate. Many times I'm being told in Israel, oh, you draw the picture in black and white, and it's not black and white, it is so complex. My friends, it is black and white. And those who say that it's complex don't want to see the truth. It is black and white because it's very clear if you look at the history from 48, even not from 48. I'm reading now the biography of Ben-Gurion written by Tom Segev. I recommend it to everyone. In the 20s, they took already the jobs of the Palestinians, systematically. No Holocaust, no security, nothing. In the 20s, systematically, they conquer, first of all, their jobs. Bene, abbiamo ascoltato questa intervista di Gideon Levy che è assolutamente illuminante rispetto a quelle pure che sono le intenzioni che storicamente Israele ha avuto, e Gideon Levy addirittura definisce quello di Israele, dell'accordo di Oslo, come un trucco che Israele ha utilizzato nel corso degli anni semplicemente per prendere tempo nel frattempo che l'occupazione continuava ad andare avanti. E infatti Gideon Levy ricorda come non si può tenere in considerazione il problema se non si guardano le colonie, e quelle colonie, se non vengono rimosse, come si fa a creare uno Stato di Israele, di Palestina, scusatemi. Quasi indirettamente Gideon Levy in realtà parla quasi di una soluzione ben più radicale, cioè di uno smantellamento dello Stato di Israele, proprio per la creazione di uno Stato in cui le persone possano convivere in maniera pacifica. Lui non dice esattamente così, questa è una mia lettura personale, ci tengo a precisarlo, però in ogni caso condivideremo sulla nostra pagina Facebook del collettivo Andala questo stralcio che abbiamo mandato in onda, e quindi insomma potrete vedere, ci saranno anche i sottotitoli in italiano, quindi sarà molto facile seguire il ragionamento, che è molto lineare, quindi anche in inglese si comprende perfettamente. In ultima battuta, Gideon Levy appunto parla di un altro fatto, e questo è un fatto storico, cioè di come già negli anni 20 i sionisti iniziarono a rubare le terre sistematicamente ai palestinesi, e all'epoca non era successo nessun olocausto, non c'era stato niente del genere, eppure la colonizzazione già era iniziata. Quindi Gideon Levy appunto mette in luce anche quest'ulteriore aspetto, cioè che la colonizzazione non è iniziata nel 1948, il giorno della Nakba. In realtà la colonizzazione era iniziata ben prima appunto dell'Olocausto, e quindi della tragedia degli ebrei, che appunto, come lui ha più volte definito, non ha niente a che vedere con lo Stato di Israele, che è uno Stato di apartheid. Davide, per diciamo voltare pagina, passiamo alla Colombia, agli scioperi che continuano nel paese. Sì, ci tenevo soprattutto a sottolineare che oggi, che è possibile leggere anche sulla sul pagine esteri, l'appello del comitato, che è possibile anche scaricare proprio l'appello integrale in spagnolo, del comitato nazionale per la più grande di tutte le mobilitazioni. Infatti il comitato nazionale dello sciopero in Colombia ha chiamato 3 nuove giornate di manifestazione e mobilitazioni per il 24, il 25 e il 26 maggio, e poco meno di un mese fa sono cominciate infatti in Colombia le proteste contro una serie di riforme proposte dal governo. Domenica scorsa si è svolta la quarta giornata di negoziati tra il governo e gli 8 rappresentanti del Comitato Nazionale dello Sciopero. Durante questa giornata i rappresentanti del comitato hanno tornato a chiedere di permettere l'ingresso nel paese ai rappresentanti di una commissione interamericana per i diritti umani, e per poter verificare quelle che sono le acclamate, le certe documentate violazioni dei diritti umani nei confronti dei manifestanti da parte del governo e della polizia colombiana. Il dialogo, come ci riporta la redazione di Pagine Esteri, seppur pare ottenere piccoli progressi, non riesce certo a fermare gli scioperi, perché il popolo colombiano è molto determinato, e si è trovato un accordo infatti solo su 5 dei 21 punti che il comitato ha presentato. Il governo ha posto infatti come condizione la fine dello sciopero e dei blocchi che stanno fermando il paese, e quindi una condizione inaccettabile. Infatti le marce sono state più di 1500, ci sono stati più di 2000 blocchi stradali e altre vie di trasporto, e di centinaia di mobilitazioni di vario genere. Il Comitato Nazionale, formato da tutte le sigle sindacali colombiane, ma anche da molte associazioni di donne, pensionati e popoli indigeni, ha annunciato quindi questi nuovi scioperi e queste grandi manifestazioni negli stessi giorni in cui un mese fa hanno avuto inizio appunto le mobilitazioni. A partire dalle 14, anche in Italia e fino alle 21 si terranno diversi sit-in, si sono tenuti alcuni, e per domani il Comitato Nazionale ha lanciato un appello per una presa dei capitali in tutta la Colombia, chiamandola alla più grande di tutte le mobilitazioni, così è stata chiamata, nell'intero paese, all'interno dei municipi e della capitale. Lo scopo è quello di potenziare la forza negoziale del comitato e ottenere maggiori garanzie dal governo e dai suoi rappresentanti. Il tutto ovviamente sarà accompagnato da carovane di solidarietà in sostegno ai manifestanti, con la raccolta di cibo e medicine per sostenere i vari punti di resistenza che sono nati a partire dagli scioperi e dalla forte mobilitazione. Ovviamente questo conflitto si sta estendendo a tutti i piccoli e grandi municipi, e fa riferimento in particolare alla legge sanitaria che puntava alla privatizzazione, al forte aumento delle tasse, al tentativo di una riforma tributaria appunto regressiva, che implicava aumenti delle tasse per i pensionati e per le fasce meno abbienti della popolazione. Il presidente colombiano infatti poi ha ritirato questo tentativo di riforma tributaria in seguito alle mobilitazioni dei movimenti, e quindi che ora chiedono maggiori garanzie per le fasce più deboli della popolazione, che il governo intervenga concretamente nei confronti e combatta la povertà e la disoccupazione che imperversa in tutta la Colombia. Sì, Davide. Appunto, ovviamente speriamo che queste mobilitazioni porteranno a delle vittorie, almeno diciamo parziali. Davide, sempre per voltare pagina, io vorrei parlare invece dell'ennesima schermaglia che c'è stata tra l'Unione Europea e la Bielorussia rispetto appunto al dirottamento di un volo Ryanair che sorvolava i cieli di Minsk ed è stato avvicinato da un caccia bielorusso e fatto atterrare per arrestare Raman Pratasevich, che è un giornalista bielorusso indipendente, però in realtà non si occupa soltanto di attività editoriali, in quanto è molto, un esponente molto attivo dell'ultradestra, è legato ai neonazisti ucraini, del battaglione ucraino Azov, e addirittura pare che sia stato uno dei principali promotori artefici di quello che è successo in Ucraina, insomma, con diciamo la controrivoluzione nera che si è consumata. E comunque tra i vari paesi che appunto hanno convocato i rispettivi ambasciatori bielorussi c'è anche l'Italia, infatti pure la Farnesina per bocca del ministro degli esteri Di Maio, di cui tristemente spesso parliamo, insomma, nelle nostre trasmissioni, appunto Gigino. Gigino, appunto, hanno espresso profondo disaccordo e rammarico rispetto a questo atto di forza della Bielorussia, e che appunto, come dicevo prima, insomma, attraverso una modalità abbastanza coatta, forzosa, ha arrestato quello che riteneva, insomma, un personaggio pericoloso. E infatti l'Unione Europea già ha fatto in modo da definire una no-fly zone sopra la Bielorussia, infatti tutti i voli tempestivi, però su Israele non si fa mai una no-fly zone. No, ma soprattutto pensa, questa cosa in realtà non è nemmeno un precedente storico nei cieli europei, perché qualche anno fa, non so se lo ricordate, in realtà fu costretto all'atterraggio in Austria dell'aereo a bordo del quale c'era Evo Morales, il presidente della Bolivia, e fu costretto ad atterrare appunto in Austria con la scusa di alcuni controlli, ma in realtà per ispezionare il velivolo e per appurare se a bordo ci fosse Snowden, che era ricercato. Quindi ecco, all'epoca non ci fu questa levata di scudi contro l'Austria per aver fatto questa cosa. Oggi invece, insomma, tutte le cancellerie europee, anzi ieri, perché il fatto è avvenuto ieri, si sono immediatamente allertate contro Minsk proprio per attuare delle sanzioni. Davide, io farei l'ultima pausa musicale di questa trasmissione, poi in chiusura darei l'ultima notizia che avevamo in scaletta, purtroppo è una brutta notizia, e niente, ci godiamo questi 3 minuti di musica. Carrying a weapon makes you tougher, but in Palestine, kids carry weapons to protect their mother. I don't mean guns or bombs, I mean stones. They throw them at tanks, but the tanks crush their bones. They shoot against unarmed people with guns and drop bombs on moms right in front of their sons. So why import